Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sono i numeri a dirci che stiamo assistendo, abbiamo già assistito in parte a qualcosa di incredibile. Se pensate che la Roma è arrivata a 23 risultati utili consecutivi e va bene, è risalita soprattutto da almeno 14 al più 1 nel giro di 19 giornate. Questo significa che da un lato è incredibile, dicevo, riuso lo stesso aggettivo, il rallentamento dell'Inter, che nelle ultime 12 partite ha ottenuto 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, che è una media da centro classifica basso. Mentre la Roma contemporaneamente ha fatto quel po' di rimonta. Numeri ce ne sono tanti altri, io mi fermerei lì, se non aggiungendo magari quelli di Snai, e cioè di un bookmaker, che a questo punto dà vincente la Roma a 1,90 per il campionato, seguita dall'Inter a un decimo di punto, cioè a 2, mentre la quota del Milan, dopo questo ulteriore pareggio interno col Catania, è salita addirittura a 15, e quindi il Milan viene considerato fuori gioco. Questi sono numeri. Le sensazioni invece ci dicono che questo incrocio di emozioni è tutt'altro che finito, anzi a parer mio è appena cominciato. La conferma viene dalla gestione che Roma e Inter sono riuscite o non riuscite a dare alle loro rispettive partite di questa domenica. Domenica sia pure sfalsata per loro due, così emozionante. Perché? Ma perché la Roma è andata sciolta e sicura, grazie anche alla papera colossale del portiere dell'Atalanta, fino a quando ha giocato da inseguitrice. Nel primo tempo la Roma giocava ancora da inseguitrice e comunque ha chiuso sul 2-0, controllando tranquillamente la partita e facendo la sua. Quando nel secondo tempo è andata in campo da capolista, è subentrato il braccino, cosiddetto, e ha... oltre che subire un primo gol, ha rischiato l'osso del collo e molte volte, in più di un'occasione, è andata vicino a subire il secondo. Però, e qua è un altro elemento da aggiungere, però ha vinto lo stesso, e dato che i 2-2 della Roma quest'anno, ma anche nelle stagioni passate, non si contano, i 2-2 subiti in rimonta, il fatto che alla fine sia riuscita comunque a uscirne e a gestire questo vantaggio è un altro elemento. È tutto un gioco di sensazioni contraddittorie. L'Inter aveva capovolto con un magnifico 1-2 in velocità una partita che pareva già segnata, ma poi l'ha buttata via. L'ha buttata via avendo anche in campo una formazione che era fatta per assaltare e non certamente per, non dico difendere, ma semplicemente per gestire una partita. Ora io credo, ripeto, che questi segnali contraddittori saranno destinati a ripetersi, a cominciare dalla prossima giornata, che sarà, se non decisiva, perché ne mancheranno altre 4, sarà certamente comunque la più importante di quelle che mancano. Inter-Juventus venerdì sera a San Siro, Lazio-Roma domenica sera all'Olimpico. Prima di lasciare spazio ai protagonisti di ieri per rivisitare le principali loro dichiarazioni e i principali temi che si ereditano oggi, prima dei vostri interventi in diretta, noto che nessuno ha chiesto scusa alla Fiorentina, e questo la dice lunga sul numero, ma soprattutto sulla qualità e sullo spessore dei cialtroni che infestano il calcio italiano e i loro dintorni, perché la Fiorentina è stata preventivamente accusata di chissà quale combin con l'Inter, di conseguenza era stata accusata anche l'Inter, perché le combin si fanno in due oppure non si fanno. A Firenze sabato sera è andata in scena una partita tirata come pochissime, senza sconti per nessuno, leale, ed è un peccato vero che non solo tutti i fomentatori e gli specialisti di spargere cacca nei ventilatori non solo non paghino dazio, ma neppure avvertano per una necessità, per una minima forma di rispetto di se stessi, se non altro, di scusarsi per aver sparso i loro veleni e le loro e le loro fandonie ovviamente infondate. Le voci di ieri, Ranieri. Mancano 5 partite e le dobbiamo giocare così, con molta umiltà, perché vediamo le difficoltà che incontriamo affrontando le altre squadre, perché chi per un motivo, chi per un altro, saranno 5 partite difficilissime e noi dobbiamo affrontarle una alla volta, sapendo che adesso dipende da noi. Prima dipendeva dagli altri, adesso dipende da noi. Siamo complicati un pochino la vita noi, se avete visto come è nato il gol, stavamo giocando bene, dominando l'Atalanta, volevamo chiudere la partita, invece abbiamo sbagliato una palla proprio tra le due panchine. Da lì poi siamo andati un attimino in apprensione, perché da tutto facile che era ci si è complicata la vita. Quando si incontra la Lazio è un derby, per cui tutti i derby hanno una storia a sé, non conta la classifica, non conta nulla, per cui va estrapolata. La Lazio sta in salute, ha una difesa molto ermetica, per cui sarà un'altra partita molto bella da giocare. Alla Roma sta anche girando tutto bene, scrive Fabio, tifoso interista. Vedremo se andrà avanti così fino alla fine. Non c'è dubbio che gli stia girando bene. Ieri il risultato dell'Olimpico è stato orientato, ripeto, da quella papera colossale del portiere dell'Atalanta. Era stata una papera di Julio César, che però si sta ripetendo spesso negli ultimi tempi ad aprire la strada alla Roma nel confronto diretto. Dall'altra parte il palo di Milito dopo 2-3 minuti, mi pare, della partita di Firenze, insomma, se anziché palo e gol, è chiaro che quella partita si orienta in tutt'altra maniera. Però questo è un segno, è un segno in più che parla a favore della Roma, perché insomma, credo che ormai dovremmo sapere che senza il concorso più o meno determinante della fortuna i campionati non si vincono. Vediamo di sentire, visto che certamente il derby di domenica sera sarà un passaggio chiave. A proposito di vittorie e di derby, così come ne ha parlato prima Ranieri, ne parla Reia. Abbiamo conquistato 3 punti, penso meritati, abbiamo avuto anche altre opportunità per chiudere la gara, non c'è stata neanche una ammonizione, l'unica ammonizione era quella di Kolarov, e pertanto siamo in condizione di affrontare la Roma. Chiaro, la Roma è favorita dal pronostico, però noi ce la giochiamo, i derby non si sa mai come finiscono, può starci tutto, non siamo scesi in campo. Ero ammutolito perché non sapevo dove metterci le mani, perché è stato letteralmente un disastro, non si riusciva a costruire il gioco, non si faceva più di 2 passaggi, si trovava le soluzioni solo lunghe, non abbiamo mai manovrato, invece poi quando ci siamo messi a giocare come azione, con le qualità che ha, è chiaro che siamo venuti fuori, abbiamo fatto un 10 minuti del primo tempo bene e poi abbiamo fatto benissimo il secondo tempo. La vigilia di Lazio-Roma, vi dicevo, che però sarà preceduta e certamente condizionata anche nel suo andamento dal risultato di Inter-Juventus la sera di venerdì. E lei chieda scusa al Milan, scrive Stefano, visto che quest'anno per mesi ha insinuato che comprava le partite, quando ieri Rossato è stato invece pessimo, 2 rigori non visti, eccetera, eccetera. Dunque, insinuato che il Milan comprasse le partite? Mai. Detto e affermato che il Milan aveva goduto di un trattamento di particolare rilievo per lungo tempo, per un lungo periodo di campionato, sì, detto e adesso ripetuto in questa sede, certamente non ieri, quando effettivamente almeno una situazione nell'area del Catania, almeno una, poteva essere punita con tutt'altra severità. Leonardo ha chiamato dalla provincia di Trapani, buongiorno. Buongiorno signor Ganzi. Dica. Intanto mi sento di fare i miei auguri da tifoso juventino a Ranieri, che rimpiango sempre per essere stato cacciato dalla Juve. Se vuole le do 2 numeri che le danno un'idea, sempre partendo da un presupposto preciso, in campo ci vanno i giocatori e i risultati li fanno i giocatori, non gli allenatori. Però se lei pensa che la Roma quest'anno con Ranieri ha fatto 16 punti in più dell'altro anno e la Juve con Ferrari e Zaccheroni ne ha fatti 14 di meno, io non dico che Ranieri valga 30 punti di sbilancio, però insomma credo che qualcosina c'entri sia in quei risultati di allora che soprattutto in quelli di adesso. Dica. No, comunque a me fa piacere che si stia prendendo questa rivincita, ecco. Certo. Poi, esuando un attimo dal campionato, volevo sentire una sua opinione riguardo a questi ultimi risvolti a queste ultime risvolte della cosiddetta calciopoli, insomma, e del discorso dell'assegnazione non dell'assegnazione allo scudetto. Ma l'assegnazione dello scudetto, se parla di quello del 2006, fu un errore allora, sottolineato a caratteri, perlomeno da me, a caratteri cubitali. Allora fu un errore sia assegnarlo che soprattutto accettarlo, a parer mio, perché sarebbe costato così poco dire no grazie. E credo che il 50% dei veleni che da allora circolano nel calcio italiano sarebbero evaporati da soli. Quanto al resto, io sto continuando a leggere cose sgradevoli, ma non significative nell'ottica se paragonata a quella che avevamo letto e sentito 4 anni fa, quando davvero si parlava di altre cose, si respirava un'altra aria e soprattutto si aveva negli occhi e nella memoria a che cosa portavano i contatti e le soperchierie di cui si parlò allora. Per il momento non mi pare che siamo a questo punto. Siamo a un punto di sgradevolezza che coinvolge persone che effettivamente se l'erano, rispetto a quello che si sta leggendo, se l'erano tirato un po' più da verginelle rispetto a quello che mi pare stia emergendo. Ma tutte queste, per ora, ripeto, sono sensazioni e non è sostanza come invece 4 anni fa. Dino ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno Granzini, le volevo fare i complimenti per la trasmissione. Sì. Comunque io sono un tifoso interista e faccio i complimenti alla Roma per questa grande cavalcata che stanno facendo nei confronti dell'Inter, però penso che anche l'Inter purtroppo da un po' con Mourinho, un po' le partite che sono una attaccata all'altra e giocando sempre con lo stesso organico stia pagando un pochettino il tutto. Speriamo solo bene che almeno di portare a casa qualche cosa, visto e considerato che ce la stanno gufando tutti. Vediamo un po'. Beh, insomma, speriamo bene. Sì. In genere si raccoglie quello che si semina, dal punto di vista delle reazioni opposte e contrarie, fermo restando che è normale comunque che chi è in testa, questo accade ogni anno e comunque si chiami, è normale che chi vince sia, o chi sta per vincere sia soggetto, no, a quel genere di trattamento da parte degli avversari innanzitutto, ma spesso anche da parte dei neutrali. A proposito di impegni, per quello di domani sera, l'Inter comincia domani sera, cioè l'Inter ha una settimana, 7 giorni altro che decisivi, direi di più, perché domani sera Fiorentina-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno, parte dall'1-0, arbitro designato Rizzoli, notizia appena uscita. Venerdì sera Inter-Juventus e martedì sera Inter-Barcellona, quindi già domani sera Firenze, ma soprattutto nelle due serate di San Siro, mi pare che l'Inter si giochi davvero la stagione. Deschamps e Ranieri primi in classifica, basterebbe questo per capire la competenza di casa Juventus. Saluti da Marco Manzardo, Vicenza. Beh, ne ho ricevute un certo numero questo è un sms, ma di mail di questa natura. Davide Cefis da Collegno scriveva la stessa cosa e ricorda che Deschamps ha già vinto una Coppa di Francia, ha appena vinto la Coppa di Francia, è in testa al campionato francese attualmente. Tra l'altro il Bordeaux di Blanc sta perdendo colpi, il che significa che la rimonta diventa un po' più difficile. Di Ranieri sappiamo, al momento sono capolista nei rispettivi campionati, i due ultimi allenatori a cui la Juventus a un certo punto disse grazie, basta così. Lo disse con una discreta eleganza nei confronti di Deschamps, lo disse con una villania che non si conosceva nelle tradizioni della storia bianconera lo scorso anno a Ranieri. Vittorio da Padova, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini, mi ha tolto le parole di bocca perché quella precisazione che volevo fare io adesso con la mia telefonata l'ha fatta lei. Cioè? Io pertanto non so cosa dire, Ranieri è un signore immenso, una persona, non ho parole per Ranieri, per i nostri dirigenti che l'hanno cacciato via, lui, Deschamps, in maniera veramente villana. Oltretutto i nostri dirigenti hanno creato una linea di difensiva e d'attacco di giocatori degli anni 70, l'anno prossimo avremo il nostro stadio di proprietà, ma guarderemo l'Europa dalla televisione. Hanno creato il polverone con Lippi, non si sa quello che farà, io spero che non venga la Juve, e rimango veramente allibito di questa nostra dirigenza e di quello che faremo, non lo so, mi dica lei. Complimenti alla Roma, forza Roma. Beh, Vittorio, sì. Sì, insomma, con quello che è successo negli ultimi tempi, la dirigenza della Juve non dico che sia indifendibile, ma quasi. Ma ripeto, è un discorso già fatto e che si farà ancora. L'errore, cioè averli scelti prima Deschamps e poi Ranieri rimane un titolo di merito. Averli poi trattati a quella maniera è stato un errore di prospettiva grave, perché... Perché c'è stata troppa fretta, è stata quella la cattiva consigliera, una fretta suggerita, indotta, minacciata dagli ultra che frequentano le redazioni e da altre componenti che hanno avuto questi effetti negativi, per non dire nefasti. Daniele Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini e complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, due cose velocissime. Uno è, io voglio dire questo, lo Special One la settimana scorsa si è lamentato che a Mosca hanno rinviato la partita per essere più freschi con l'Inter. Ma anche questa settimana però in Italia si anticipa di 2 giorni la partita per farli arrivare più riposati contro il Barcellona. E non vedo nessuno che si lamenti da parte del Barcellona. Vorrei vedere, mi scusi, questo qui siamo sui regolamenti UEFA, bisognerebbe conoscere i regolamenti prima di parlare. La seconda cosa che è questa qua. Sabato ho visto veramente un 3 settimane di grande calcio, da Napoli-Parma a finire a Real Madrid-Barcellona. Però ho visto in Fiorentina-Inter delle cose, degli atteggiamenti veramente... brutti da vedere. Schneider che ogni fallo contro gliene diceva di tutti i colori all'arbitro, e l'arbitro semmai per me si è avuto un cartellino. E Ballotelli dopo 30 secondi che è entrato in campo simulare come se gli abbiano sparato, si è buttato per terra per morto, che l'aveva solo sfiorato il difensore della Fiorentina. Voglio sapere cosa ne pensa. Grazie e buona giornata. Penso che non ho capito i complimenti per la trasmissione dell'inizio, insomma, che tra l'altro, come lei dovrebbe sapere, come tutti gli aficionados sanno, sono la frase peggiore per cominciare un collegamento, perché trattasi di frase stereotipata, di frase vecchia di secoli, di cose. Uno chiama e dice sono Giovanni, buongiorno, faccio per dire, no, ma questa è una vecchia storia, almeno decennale. Ripeto, non capisco i complimenti della trasmissione, perché è completamente diversa dal suo modo di intendere e vedere il calcio. La sua telefonata fa il paio, fa il contraltare anzi dall'altra ottica rispetto ai messaggi che mi stanno arrivando sull'inqualificabile comportamento del guardalinea Airoldi, come se il comportamento del guardalinea Airoldi, di cui io non so nulla perché non ho visto immagini e soprattutto non mi interessa, pare da una delazione del solito soggetto che alla fine abbia avuto un mezzo gesto di esultanza alla fine della partita, che è stato spiegato ufficialmente dall'AIA, e cioè dall'associazione arbitrale, come la soddisfazione perché via radio, sapete che gli arbitri e gli assistenti e il quarto uomo sono collegati in cuffia, erano arrivati i complimenti per la loro direzione di gara, e non è da escludere che i complimenti fossero già arrivati dall'alto a quel punto, perché la partita era finita, quindi poteva essere il designatore o chi per lui, o semplicemente l'arbitro centrale che diceva bravissimi, avete indovinato tutto, cosa che sarebbe stata ampiamente giustificabile dal fatto che i due assistenti di Fiorentina Inter hanno beccato 3 situazioni, cioè hanno dato buoni 3 gol, tutti e 3 al limite estremo, sia i 2 dell'Inter che l'ultimo della Fiorentina, indovinando esattamente che non c'era fuorigioco, quando in tutti e 3 velocità normali il sospetto ci poteva stare. Allora naturalmente non conta che questo arbitro e questi guardalinee siano stati bravissimi sul campo, no, conta eventualmente questo gesto alla fine, ripeto, rivelato dal solito delatore che è venuto in Italia a mettere quella materia inorganica di cui parlavo prima nel ventilatore. Così va il mondo. Torniamo in onda, non travolto da messaggi, mica messaggi, mail, ne prendo 3 a caso, le ultime arrivate. Solo per giusta informazione, scrive Vittorio da Olgiate Olona, provincia di Varese, la Juve ha cacciato Ranieri ma non Deschamps. Deschamps sotto stress spiazzò Coboldi Giglia e la società dicendo che non se la sentiva di continuare a allenare la Juventus. Io dico che se gli avessero confermato la loro fiducia, si sarebbe sentito e come di continuare a allenare la Juventus. Cosa ne pensa del divieto di recarsi a San Siro per i tifosi della Juve, mentre l'andata gli interisti andarono a Torino senza alcun problema? Non ne sembra una discriminazione? No, mi sembra la risultante di certi comportamenti delle tifoserie prese nel loro insieme. Poi si capisce che siamo alle solite, le persone per bene ci rimettono per colpa dei soliti noti, ma questo accade ovunque. E a proposito, sono abbastanza gravi le risultanze degli incidenti accaduti ieri sera a Genova prima del derby. Due tifosi genovani denunciati per gli incidenti, appunto, e altri 25 identificati. Agli scontri avvenuti in una zona riservata alla tifoseria sampdoriana hanno partecipato oltre un centinaio di scalmanati, nei confronti dei quali la polizia sta ora compiendo accertamenti. Si tratta di fatti gravi, ha spiegato stamattina il questore di Genova, che hanno visto le forze dell'ordine costrette a fronteggiare due fazioni opposte, a farne le spese due carabinieri e quattro agenti, tutti fortunatamente feriti lievemente, solo un poliziotto ha avuto una prognosi di 15 giorni. Proteste del segretario generale provinciale del COISP, coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia. Non si può più accettare il fatto che in ogni partita si assista allo sfogo e alla frustrazione di persone ignobili, ha detto questo segretario generale, dei quali si rendono responsabili di reati violenti non più giustificabili da parte di nessuno. Ecco, questa mi sembra una frase chiara per una volta. Non si può più accettare il fatto che ad ogni partita si assista allo sfogo e alla frustrazione di persone ignobili. Tocca a Mario da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, dica. Io sono simpatizzante dell'Inter e volevo dire due cose in merito a quello che lei sulle combine Inter-Fiorentina. Hai detto la parola giusta, Cialtroni. Io posso solo aggiungere c'è il sospetto e il difetto, ecco. E poi in merito a Calciopoli volevo solo dire che speriamo che c'è il solito modo italiano di buttare fango su tutti per far capire che probabilmente sono tutti colpevoli e alla fine nessuno è colpevole. Ecco, la ringrazio e l'ascolto per me. Mario, sì, certo, questa è la logica della linea difensiva che è stata varata e inaugurata. Devo dire che non credo che servirà, non credo e mi auguro che non servirà ad assolvere i colpevoli della prima ora. Che stia facendo qualche danno di immagine ai presunti colpevoli della seconda ora, però mi sembra ugualmente abbastanza indubitabile. Fausto ha chiamato da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Io innanzitutto sono tifoso interista, volevo fare anch'io i complimenti alla Roma perché secondo me si merita il primo posto visto le condizioni con le quali aveva iniziato questo campionato e tutto. Spero che alla fine lo scudetto lo vinciamo noi, anche se non è obbligatorio. Come considerazione tecnica, secondo me l'Inter ha iniziato ad andare male da quando Mourinho ha rispolverato il 4-3-3, che anche all'inizio dello scorso campionato gli aveva dato dei risultati pessimi, nel senso che attuarlo in campionato dove il 90% delle squadre gioca tutte chiuse in difesa, secondo me è improponibile. Dovrebbe arrivarci da solo a vedere che la cosa non funziona. Grazie, l'ascolto per radio. Sì, con l'aggravante che questo 4-3-3, che invece insomma, ci potrebbe pure stare, insomma, queste sono scelte, oltretutto i moduli hanno un senso se sono duttili, se sono dei dogmi per me non hanno mai senso di qualunque modulo si tratti e di qualunque squadra si tratti. Il problema però è che ogni tanto questo 4-3, quello che lei chiama 4-3-3, diventa 4-1-5 oppure 3-2-5 come nel caso dell'ultima parte della partita di Firenze, e sinceramente mi pare questo che ha sbilanciato l'Inter nel finale, no? Perché il controllo del centrocampo era completamente sparito e quella situazione difensiva, sfortunata la sua parte, colpa soprattutto del portiere, ma insomma non c'erano le pedine più adatte a essere sistemate e a coprire gli spazi su quel calcio d'angolo. Leonardo scrive: vittimista, populista, sempre a vedere gli errori degli arbitri e mai i propri. Ma quanto è dannoso Mazzarri per il Napoli? Ecco, questa è una osservazione, caro Leonardo, che io sottoscrivo, perché perché poi ogni tanto gli occhi, la gente gli occhi per vedere li ha, no? E quindi il fatto di aver scaricato ogni colpa della sconfitta di sabato contro il Parma sull'arbitro, quando l'arbitro c'entrava davvero poco, per non dire nulla, beh, insomma, fa parte del repertorio classico di Mazzarri, ma ogni tanto è più spudorato del solito, mettiamola così. Stefano, proprio da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Niente, io al di là di confermare quello che ha detto lei, Leonardo, vorrei un altro consiglio da lei sul 2-2, un giocatore di nazionale e poi diciamo un nostro idolo napoletano come Quagliarelli si fa espellere in quelle condizioni, che il Napoli stava quasi, diciamo, per portarsi la pagnotta a casa, diciamo, gli ultimi 10 minuti. Cosa ne pensa di questa espulsione di questo signore, ragazzi? Penso che faccia una grande fesseria, e penso che anche questa sia figlia del nervosismo che viene trasmesso dalla panchina, esattamente quando due mesi fa qualche espulsione da parte dell'Inter di giocatori interisti derivavano dall'isteria che spugnavano dalla panchina. E credo che tra la responsabilità di un allenatore ci sia quella anche di tenere calmi i propri giocatori sul campo, soprattutto nei momenti in cui il nervosismo diventa inevitabile. A parte che poi una buona parte di nervosismo c'è sempre. Naturalmente quella sostanza di cui parlavo prima è materia organica, non inorganica. Me lo fanno notare in 3 o 4 amici. Non so come possa essermi uscita sinceramente una fesseria del genere, ma meno male che ogni tanto porte tutte scandale venient, meno male che ogni tanto una fesseria si dice. Perché? Perché questo mi ha dato la conferma di quello che, per esempio, 4 giorni fa a Vinitaly in molti mi raccontavano, e cioè che questo programma, Radio 24 in generale, ma questo programma in particolare, è molto ascoltato da contadini, da uomini che lavorano la terra, e che se trattisi di vigneto, frutteto, di campi o di quello che si vuole, in quest'ora stanno con le loro brave cuffiette ad ascoltare queste chiacchiere in libertà. Sono loro, siete voi a larga maggioranza che siete intervenuti per segnalarmi questa sciocchezza. Segnalo Mirko Capacci da Arezzo, giusto per citarne uno, gli altri non farei in tempo perché diventerebbe un lungo elenco. Grazie. Peppe, provincia di Isernia, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Dica. Senta, io sono stato tifoso interista per la 67, quindi ho fatto tutto il purgatorio e tutto il resto, quindi quello che dico non penso lo possa anche dire. Voglio dire questo, ma i giornalisti, secondo me, alcune volte, lei mi fido completamente, dico questo, molte volte queste campagne pubblicitarie non è che servono proprio a nervosire certi ambienti? Tipo? Tipo, non so, prima di Inter Fiorentina, tutto questo casino sul fatto che la partita deve essere combinata. Stesso caso Ballotelli, secondo me, è stato molto molto gonfiato dai giornalisti, e lì ho visto semplicemente molti giornalisti una certa parte farlo, quasi a spingere Ballotelli. Beh, però Peppe, io distinguerei le cose, cioè il caso Ballotelli, che nel caso Ballotelli qualcuno ci abbia, guardi, mi scusi se mi distrago un attimo, ma ho uno schermo acceso, ovviamente muto, se no non potrei parlare con voi, su Sky Sport 24, e sto vedendo in diretta Albertosi, Gigi Riva, Nenè, che stanno tra l'altro ridendo a più non posso in questo momento, evidentemente perché qualcuno di loro ne ha sparato una grossa, e potrebbe essere Ricky Albertosi proprio, che rivedo con piacere, anche perché qualche anno fa aveva avuto una piccola offesa di salute, e invece mi sembra che abbia recuperato al 100% e potrebbe forse tornare tra i pari anche domani. Ecco, questa è bella gente che rivedo volentieri, e mi scusi se ho divagato e mi sono distratto. Distinguerei le cose. Nel caso di Balotelli, indubbiamente c'è stato qualcuno del settore più che giornalistico, direi paragiornalistico, mettiamoci un bel para davanti, che secondo me è ancora troppo poco per prendere le distanze, che comunque ci ha, come dire, ci ha giocato, ecco. In gergo si potrebbe dire anche che ci ha tettato un pochino, ma questo non toglie che sia un aggravante per una mancata buona gestione da parte della società e da parte del tecnico soprattutto, perché se tanto alla fine fai, cioè io parto dalla ragion di Stato, se fai pace dopo sei partite, ma perché non la fai dopo una o dopo due la pace, no? Visto che non c'è stato nessun fatto nuovo in mezzo, è puro autolesionismo ed è puro esercizio di muscoli sterile, perché ogni volta che Barotelli arriva con un minuto di ritardo, mi risulta, ne succede un di ogni. Se Maicon arriva con qualche decina di minuti di ritardo e magari in condizioni non ottimali all'allenamento, mi pare invece che il trattamento sia diverso, così almeno si ricava dalla lettura di quei non tanti giornalisti davvero bene, bene informati. Da Napoli, Nicola, buongiorno. Salve Gigi, salute, buon pomeriggio. Sottoscrivo, cioè, appieno quella, l'osservazione sua e quella poi del collega sempre di Napoli, mi sembra, su Mazzarri e poi su Quagliarella, in effetti. E la cosa dispiace, per non ripetere, insomma, le stesse cose, soprattutto nel caso di Fabio, no, Quagliarella, che è arrivato, c'è, cioè, una stagione abbastanza travagliata, mi sembra, abbia passato, no? Sì. Dove sicuramente il fatto poi di essere tornato a Napoli non so quanto gli abbia fatto bene, no? Per un motivo o per un altro, cioè, sembrava si stesse mettendosi la squadra sulle spalle, ecco, qui assist, goal, e invece poi vederlo in quegli atteggiamenti un po' volgari, ecco, anche, cioè, insomma, nei confronti di quest'arbitro che poi non sapeva più che cosa fare, se non cacciarlo fuori. Sì, è stato un po' spiacevole. E a posto, poi dopo la solita conferenza stampa ancora oggi di Mazzarri, c'è anche poi a un certo punto quello che potrebbe essere un limite di questa società. Io ho creduto moltissimo, insomma, voglio dire, in questo progetto ci credo tantissimo, mi piace tanto, però poi vederli così che si perdono, ecco, mi... lo credo che sia. Lei ha parlato di progetto, c'è un bel messaggio, non riguarda il Napoli, che parla di progetto, lo leggo perché è divertente. Roberto scrive: mi sa che il vero progetto bianconero consisteva nel far vincere lo scudetto alla Roma. C'è stato poco tempo oggi per le statistiche di Franco Piantanita, però qualcuna divertente interessante c'è. Per esempio, con 7 gol in 12 partite, Maxi Lopez de Catania è sicuramente l'affare principale del calciomercato di gennaio, seguito a ruota da Floccari, 6 gol con la maglia della Lazio. E, altra curiosità, Cassano, segnando il suo primo gol nel derby genovese, ha ormai segnato un gol in tutti e quattro i derby che ha giocato in carriera, cioè in Bari-Lecce, in Roma-Lazio, in Real Madrid-Atletico Madrid e adesso anche in Sampdoria-Genoa. Due messaggi. Non leggo mai messaggi di questo genere, faccio un'eccezione quando raramente sono consecutivi. Oggi saranno arrivati, non esagero, 200 messaggi, forse anche 300. Già finora ce ne sono due consecutivi meravigliosi. Signor Garanzini, non si faccia compatire, lei è patetico e ignorante e ovviamente non è firmato, e subito dopo lei, oltre che essere competente, è anche simpatico, e questo è firmato Davide da Alba, e quindi Alba vuol dire che è quasi un compaesano, ma insomma mi auguro di non conoscerlo, e cioè che sia un anonimo. Meraviglioso invece Mario da Como, meraviglioso per la memoria, che a proposito dei complimenti per la trasmissione di cui sopra scrive: mi ricordo Nino Frassica nella mitica trasmissione Indietro Tutta prendere in giro il grande Arbore dicendogli in continuazione complimenti per la trasmissione. E io aggiungo, Mario, sono passati 25 anni da quel capolavoro televisivo e sono 25 anni che complimenti per la trasmissione è un'espressione squalificata, nel senso che è sepolta nel tempo, da allora, no? Proprio da quella prodezza verbale combinata Arbore Frassica. Ecco perché se ci si astiene dai complimenti della trasmissione, personalmente preferisco di gran lunga. Sentiamo il ripasso della storia il 12 aprile. Beh, il 12 aprile sono un po' di ricorrenze di compleanni. Sentiamo cosa ha scovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 12 aprile 1970, 28ª giornata di campionato. All'Amsicora, il Cagliari di Manlio Scopigno regola per 2-0 il pericolante Bari, con reti del capocannoniere Gigi Riva e di Gori, e conquista uno storico scudetto. Un titolo più che meritato, come sottolineano i giornali del giorno dopo. I sardi hanno raggiunto la testa della classifica alla 5ª giornata e non l'hanno mai più lasciata, piegando la resistenza di squadre più abituate a lottare per lo scudetto, come l'Inter, la Juventus e la Fiorentina campione in carica. Un ascoltatore mi informa che non sta lavorando né una vigna né un frutteto, semplicemente sta zappando e annaffiando l'orto, ma lo fa con le cuffiette che gli consentono di sentire Radio 24. Grazie davvero, tengo a voi in modo particolare. Voci, altri interventi in diretta. Roberto da Foggia, buongiorno. Salve Garanzini, buongiorno. Solo per confermare la tesi dell'arbitro del guardalinee che esultava, praticamente ormai io posso confermare che è una prassi quella di oggi per gli arbitri esultare proprio alla fine di ogni partita, soprattutto se arbitrata bene. È un riscontro, lo si può, diciamo, intravedere nel documentario Kill the Referee, quel film documentario dove proprio si danno una sorta di 5, diciamo, telematico prima di darselo realmente la terna arbitrale. Quindi magari quell'esultanza era proprio dovuta, diciamo, e giustificata dal fatto che la gara era stata condotta bene, la loro felicità era come quella dei giocatori quando per esempio si fa una bella partita. Per gli arbitri accade questo, solo questo. Mi auguro che sia così. Io sono abbastanza convinto che sia così, certamente me lo auguro. Altrettanto certamente trovo che da parte, no, non che l'abbia fatta lunga l'Inter in materia, ma insomma, già il solo fatto che l'abbia vagamente alimentata è il solito culto tutto nostrano per la pagliuzza rispetto alle travi, tutto lì. Vittorio, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare un appello a Leonardo affinché facesse una riflessione. Stimo moltissimo Leonardo, sono tifoso milanista, ma visto che il Milan ottiene degli ottimi risultati quando gioca con la difesa alta, forse Leonardo dovrebbe considerare, con tutto il rispetto per Favalli, di provare in queste ultime giornate a far giocare Ambrosini come centrale, visto che il povero Favalli, come dico con tutta la stima che ho per l'uomo e per il giocatore, mi sembra che ormai quando trova un giocatore possente faccia molta fatica. E un altro appello molto breve a Berlusconi: investi un po' di soldi l'anno prossimo che siamo da scudetto. Grazie. Grazie a lei Vittorio. Mi pare che Ambrosini anche ieri abbia fatto a Manchester sicuro, e mi pare che anche ieri sia stato a un certo punto impiegato da centrale con non brillantissimi esiti, direi. Io nel frattempo continuo forse a essere un po' distratto, ma insomma sto vedendo i vecchi campioni del Cagliari che Nicola Filippone molto opportunamente vi ha ricordato per questo anniversario. 40 anni fa, 40 anni oggi il Cagliari vinceva lo scudetto. Sto vedendo inquadrato Sergio Gori, detto Bobo Gori, che insomma, forse era allora il più giovane o uno dei più giovani di loro, e si è, da come lo vedo oggi in TV, si è conservato particolarmente bene. Maurizio da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Niente, io volevo fare solo una considerazione. Io sono un tifoso interista. Sì. Sul fatto che noto che in questi ultimi periodi, a parte discorso di Mourinho, che certamente molte volte non ha agevolato l'Inter anche come immagine, però io noto che c'è sempre la tendenza a criticare molto questa squadra, quando non bisogna dimenticarsi che comunque negli ultimi anni, per la pochezza del calcio italiano, è comunque stata l'unica squadra, sia con Mancini prima e poi con lo stesso Mourinho, che comunque ha avuto una progressione, progredita, e ha dato al calcio, secondo me, qualcosa in più che per adesso in tutte le altre squadre non si vede. Per cui secondo me anche a livello di pubblico generalizzato, non solo interista, noto che si è sempre più pronti a criticare piuttosto che fare anche qualche considerazione di merito su una squadra che è comunque l'ultima, l'unica per adesso, che secondo me ha fatto vedere qualcosa di più, un progresso a livello proprio societario, di squadra. E vedo che però c'è sempre un po' di, chiamiamola, cattiveria calcistica, ecco. Non so cosa ne pensa lei, grazie. Penso che non ho visto granché di questo di più, sinceramente, io Maurizio, nemmeno quest'anno. Se quando ho visto giocare a calcio in maniera nuova, diversa, significativa, brillante, divertente, l'ho visto da parte del Bari, per esempio, o da parte di qualche altra piccola squadra. Ho visto due eccellenti partite giocate dall'Inter in Coppa con il Chelsea, queste sì, anche in rapporto al valore dell'avversario, in campionato molto più, molto più di rado, e comunque da quando in quale risulta che in nessun paese, per ragioni di rivalità, ma a maggior ragione in Italia, da quando in quale risulta che alla prima o alla più brava, diciamo alla più forte, perché questo era il suo concetto, alla più forte vengono riconosciuti i meriti, oppure tutti si inchinano rispettosi e riverenti. Saremmo da qualche altra parte, quindi sinceramente non ho capito benissimo. Roberto, provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno, mi ricollego al suo intervento precedente e le faccio i complimenti per la trasmissione. La ringrazio, perfetto. Sappia che Amauri ha appena giurato sulla Costituzione ed è ufficialmente un cittadino italiano. Accade nel giorno del compleanno di Lippi, mi ero dimenticato prima di segnalarlo, anche del mio amico Eraldo Peci, per la verità, che è un compleanno che festeggio più volentieri. Mi dica, Roberto. Allora, io diciamo da juventino ferito e sofferente, vado per fare i complimenti a Didier Deschamps, che è il primo in classifica con l'Olympique di Marsiglia. Uh-huh. E voglio dire, al pari di Ranieri, che ha una rosa inferiore a quella di altre squadre del suo campionato, appunto Ranieri nei confronti dell'Inter e Deschamps nei confronti di Bordeaux e Lione, sta dimostrando di essere un grande allenatore e probabilmente uno dei primi errori della dirigenza attuale juventina. Certo, la ringrazio Roberto, tenga conto che un giorno o l'altro mi piacerebbe mettere a confronto le rose, cioè diciamo i 18-20 dell'Inter, i 18-20 della Roma, e poi di domandare a voce alta e di fare un vero referendum di quelli da approfondire con qualche concetto sul come è possibile che la Roma sia un punto in classifica davanti all'Inter e su che percentuale ci sia, proprio per quello che è accaduto, di merito da parte della Roma e di demerito da parte degli altri. C'era Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio.